questa cazzo di sigaretta? E tu mi dirai di sì. O mi dirai di no. Pensarci bene. Non avere fretta. C'è tanto tempo ancora. Il tempo di una sigaretta. Guardo pigramente le spine profumate, lo vedi, fuma piccole boccate. Vorrei fermare un poco questa onda di fuoco. Vedi, si consuma questa sigaretta. Tu mi dirai di sì, o mi dirai di no. Passano ore e minuti, forse troppo in fretta. Io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta. Potevi dire sì, invece ha detto no. Amore, non c'è sogno, ma troppo in fretta. Io me ne vado, amor, e spengo questa cazzo di sigaretta.